tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Oggi parleremo di disgrazie clericali, misfatti clericali, anticlericalismo e detti anticlericali, eccetera. Allora, da Lecce, fulmine si abbatte sul campanile, crollano pezzi di tufo sulla strada. Nel paese di Supersano, attimi di paura per il parziale crollo della sommità del campanile della chiesa del Santissimo Sacramento. Il fulmine ha scaricato tutta la sua potenza sulle guglie dell'edificio cattolico, distruggendone la guglia. Anche qui il Santissimo Sacramento dormiva e non è minimamente intervenuto. Da Cerveteri, in provincia, insomma vicino a Roma, fulmine si abbatte sulla chiesa di Santa Maria Maggiore, campane fuori uso, distrutta anche la caldaia e bruciata la linea telefonica. Anche qui la chiesa di Santa Maria dimostra appunto come questa Maria sia latitante. Ma la disgrazia maggiore della settimana viene da Madrid, dove un prete ha tentato di suicidarsi col gas in un edificio della parrocchia, ha fatto saltare per aria tutto ed è morto, ferendo anche altre persone presenti nell'edificio annesso a questa chiesa della Virgen della Paloma, cioè la Madonna, e anche qui la Madonna dormiva e non è intervenuta. Poi c'è stato il crollo della chiesa a Napoli, e anche qui questa chiesa dedicata alla Madonna, anche qui la Madonna non è intervenuta per salvare la chiesa a lei dedicata. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Passiamo ai notizie vere e proprie anticlericali. Buone notizie dall'America Latina, dal Manifesto del 16 gennaio 2021, pagina 9. Aborto, l'onda verde argentina scuote tutto il continente. Patriarcato, fede, razzismo, dati ancora impietosi. E in alcuni paesi si rischiano 30 anni di carcere per chi abortisce. Parte il dibattito, il Cile può essere il prossimo paese dove sia legalizzato l'aborto. Con il sì di Buenos Aires all'interruzione di gravidanza legale, sicura e gratuita, riparte la lotta. E poi leggiamo ancora, serviva una legge che generasse uguaglianza, chi aveva maggiori possibilità economiche trovava forme sicure per abortire, le donne povere rischiavano la vita in mano alle mammane. Prima era un privilegio, ora è un diritto di tutte. Su Focus, canale 35, c'è stato settimana scorsa, sabato 16, un bel documentario su Galileo, minacciato di morte dall'Inquisizione, però non si è parlato della tortura cui è stato anche qui minacciato. E dunque il 18 gennaio sulla 7 è stato mandato un bel film anticlericale, l'ambizioso avvocato Martin Weil accetta di difendere Aaron Stampler, un timido chierichetto accusato di aver massacrato l'arcivescovo di Chicago addirittura. Il legale scopre che l'alto prelato era un pedofilo incallito. Quindi il film Schegge di paura del 1996 con Richard Gere, mi raccomando, chi può lo veda, contro i preti pedofili. Dal sito dell'UAR, www.uar.vit, c'è un lungo articolo contro l'ora di religione e in cui si cita addirittura il concordato clerico-fascista di Mussolini, e in quanto appunto si deve fare la scelta via internet, e ci sono i riferimenti a tutte le norme di legge in materia. E ribadisce che gli insegnanti religiosi sono tutti in malafede in quanto selezionati dal vescovo e licenziabili in qualsiasi momento, non solo se dicono qualcosa contro la chiesa o che non va bene alla chiesa, ma anche per la loro vita privata. rilanciare l'anticlericalismo, avanti con l'ateismo, lotta dura per la laicità delle istituzioni. Sempre su www.war.it si parla buone novelle laiche. A Milano è stato rimosso un manifesto contro le donne che abortiscono, anche a Bergamo, e si denuncia come i clerico fascisti di Forza Nuova abbiano insultato una coppia omosessuale. Abbiamo poi questa mia recensione del libro di Jacopo Fo, Come essere figlio di Franca Rame e Dario Fo, edizioni Guanda. E innanzitutto ricordiamo l'altro libro molto buono di Jacopo Fo, Il libro nero del cristianesimo, che è uscito in una nuova versione, tutta diversa ovviamente, di Nuzzi. Tra le novità misconosciute della travagliata vita della famiglia Forame, veniamo a sapere che quando erano già note le idee ateo-comuniste di Franca Rame, certe malefiche suore romane cercarono di ucciderle l'unico figlio Jacopo Fo, mentre era impegnata a girare un film a Roma. Tramite alcune suore ciniche e disgraziate al massimo grado, senza informarla dei suoi precedenti penali omicidi, le rifilarono come tata per il piccolo Jacopo una pazza assassina infanticida. Chiaramente speravano che uccidesse il figlio della Franca Rame. Una volta scoperto per caso il loro terribile misfatto, così si scusarono con i bimbi delle altre donne, non provava aggressività. Mia madre fu presa dal terrore. E ricordiamo che lui fu fondatore del periodico Il Male, che ebbe 186 denunce per oltraggio alla religione. E abbiamo poi l'assassinio di Emilio Albanese, il suocero, e la sorella di Agnoletto, Vittorio, Maria Giulia, che fu massacrata di botte, e con entrambi con delle armi di ferro, ed entrambi erano legati, uno per parentela, uno per appoggio politico, alla famiglia Fo Rame. E buone notizie: Vaticano condannato l'ex presidente dello IOR Angelo Caloia a 8 anni di carcere e altre condanne per gli affaristi del Vaticano che sempre sono dietro a rubare soldi a tutto spiano. Abbiamo poi ebrea perseguitata, lo Stato chiede indietro 80.000 euro di vitalizio, e questa è la solita prova che l'Italia è un'atroce entità clerico-fascista, come diceva Pierpaolo Pasolini prima di essere assassinato appunto in un complotto clerico-fascista. I fascisti sono presenti massicciamente nello Stato italiano in ogni angolo, e la vecchia teoria del Movimento Studentesco di Milano sulla fascistizzazione dello Stato è ancora di grandissima attualità, questo fatto lo prova. I razzisti filocrocifissi della Lega di Salvini distribuivano pacchi alimentari solo ai loro adepti, scandalo nel Vercellese che è finito sui giornali. Poi sui preti pedofili, denuncia gli abusi della diocesi che trasferisce al nord il prete, e allora la vittima si rivolge alla polizia e ai giornali. Prete condannato a 6 anni, trasferito al nord, occhio, su ilmessaggero.it del 20 gennaio. Abbiamo poi la scoperta che di antenati dei coccodrilli che vivevano sulle Alpi, e questo ci induce appunto a parlare del Darwin Day. Sappiamo che tutti i mammiferi derivano dai rettili che esistevano prima dei mammiferi, e un piccolo mammiferino, una specie di topone, è il nostro più antico antenato, cioè l'antenato di tutti i mammiferi. Questa scoperta di queste impronte fossili sulle Alpi è un'ennesima riprova della falsità di quanto c'è scritto nella Bibbia, no? Quello che vediamo non è stato creato, ma è frutto di un'evoluzione durata milioni di anni. Se tutto sarebbe stato creato per noi, come falsamente dicono i preti, come mai per milioni di anni un presunto Dio ha tenuto la terra in mano a questi mostruosi animali carnivori, come quello scoperto recentemente sulle Alpi? Abbiamo poi i detti anticlericali. Detti anticlericali, iniziamo con Susan B. Anthony, femminista. Le donne sono più conservatrici degli uomini a causa di diversi fattori, tra cui forse più importante le credenze religiose. che hanno loro inculcato la convinzione che la loro subordinazione fosse voluta da Dio. Poi abbiamo questa lavandaia livornese: e quando morirò non voglio Cristi, non voglio Ave Marie né Padre Nostri, ma voglio un bel corteo di comunisti, che siano comunisti anarchici o comunisti marxisti, se non siano preti, insomma. Poi abbiamo Rita Bartoli Costa, vedova di un magistrato ucciso dalla mafia. Singoli preti si sono schierati contro la mafia, ma la maggior parte è stata assente, se non connivente complice, in alcuni paesi. Sacerdoti e vescovi erano parenti di noti mafiosi. La Chiesa e la mafia, la DC uguale mafia. Proprio in questi giorni ci sono stati gli arresti in Calabria, i democristiani sono ancora uguali, che si chiamano DC, UDC o popolari, hanno dei vasti settori complici con i venti della mafia, della Camorra, eccetera. Poi concludiamo i detti con Bruno Zanin, giornalista. In Bosnia tutti invocano Dio e si ammazzano in nome di Dio, quindi evitare Dio in ogni maniera, mi raccomando, diventate atei. Dal mio libretto Piccolo dizionario anticlericale, declericalizzazione, processo di disintegrazione dell'egemonia clericale in campo politico-sociale. Bene, passiamo al notiziario, al mio calendario anticlericale. Lunedì 25 gennaio 1946, lo stesso Vaticano ammette l'esistenza di abusi di vario tipo fra suore e preti e nei loro conventi. 25 gennaio 1946, lettera riservata di Monsignor Montini, futuro Paolo VI, a favore di un gerarca fascista minacciato di sequestro dei beni. 26 gennaio 1525, l'Inquisizione spagnola famigerata interroga in stato di arresto l'eretica Isabel de la Cruz. 27 gennaio 2001, la Chiesa spagnola chiede perdono per gli abusi perpetrati contro ebrei islamici dopo la conquista di Granada. 28 gennaio 1954, il figlio del ministro democristiano Piccioni chiamato in causa in un processo per lo scandalo dell'assassinio Montesi. 29 gennaio 1543, grande falò di libri eretici a Milano. E la Chiesa non bruciava solo gli esseri umani, ma anche i libri. 30 gennaio 2019, scandalo Nardolecce, guerra tra confraternite clericali, spuntano le microspie. 31 gennaio 2019, caso limite di superbia clericale a Solaro. Per la terza volta in 3 anni la polizia multa lo stesso prete per simili violazioni del codice della strada. Accadde nel gennaio 1999. Si costituisce a Londra un'associazione di sopravvissuti degli abusi dei preti pedofili. Bene, saluti a tutti, ricordando il sito del Circolo Giordano Bruno, www.giordanobrunomi.wordpress.com, con motore di ricerca. Ciao a tutti. Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita,